grado s'offuschi la vista, rinasco nel fango, nel male. Canta selvaggio che il mondo campa, stendi la carne, la fronte, alza la voce, non sarai mai ubriaco come lo sei ora. Dal bilico infermo potrei levare ancora senza guarire e attraversare gli anni nell'odore, mi ami. Canta selvaggio che il mondo campa, stendi la carne asciutta.